Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi e benvenuti, sono le 11.08, in regia abbiamo Pietro Alla Corte, in redazione Laura Vanossi e come sempre ci sono i titoli del nostro sommario. Sei padre dipendente? Quanto la figura di tuo padre ti ha cambiato e condizionato? Parliamone insieme. Interventi alla carotide, il tipo di anestesia non fa differenza. Alimenti ricchi di antiossidanti, meno efficaci se assunti con il latte. Pompelmo, un succo amico del nostro benessere. C'è un uomo che è con noi da sempre, dal primo istante della nostra vita, anche quando non c'è più, continua a lasciare un segno tangibile, vivo, pulsante nella nostra vita. È nostro padre. Ogni padre lascia un segno. Oggi proviamo a riflettere su questo e a fare una sorta di bilancio. Credo possa essere utile a tutti, non per fare recriminazioni, ma per ritrovare o riscoprire e soprattutto per vedere con una serena e matura obiettività il legame che ci lega a quello che volenti o nolenti è sicuramente l'uomo più importante della nostra vita. Allora, possiamo provare a fare questa riflessione a voce alta rispondendo, credo, a queste due domande. Quale area della nostra vita è stata maggiormente influenzata dal padre che abbiamo avuto? Penso, non so, al lavoro, all'amore, alle relazioni sociali. E nello stesso tempo, qual è stato il punto di forza e anche quello di debolezza del rapporto con nostro padre? Insomma, che cosa ci ha insegnato, che cosa ci ha dato, che cosa ci ha fatto mancare? Oggi ci aiuteranno in questo viaggio nel mondo della paternità due esperti, un grande esperto che alla figura del padre ha dedicato tante energie, studi, ricerche, ha scritto tanti libri, e il mio compagno del sabato di Questa casa non è un albergo, Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Ed in linea con noi anche la dottoressa Monica Morganti, è psicoterapeuta, che ha appena pubblicato per Franco Angeli il libro Figlie di padri scomodi. Buongiorno dottoressa e benvenuta. Buongiorno a voi, grazie. Dottoressa, chi sono i padri scomodi? In realtà i padri scomodi sono quasi tutti, nel senso, se troppo presenti o troppo assenti sono entrambi scomodi. Perché il padre giusto è il padre che ha una presenza che aiuta senza essere però idealizzato. Quindi è abbastanza difficile non essere scomodo. Ecco. È abbastanza difficile. Alberto, tu che padre ti senti? Ma credo in questo momento di essere un padre comodo per necessità, perché con tutti i bambini che ho in casa c'è talmente tanto da fare che mi rendo utile, e contemporaneamente credo di essere un padre che, in base al padre che ho avuto, ha individuato degli aspetti di continuità e anche però degli aspetti di differenza e di diversità. 800 24 0024 se volete intervenire o scrivere un messaggio al 349 238 6666. Allora io chiederei alla dottoressa Morganti e ad Alberto di fare una piccola classificazione dei padri. Dateci, oppure posso suggerirvi io, una serie di aggettivi e con questi facciamo un profilo che in qualche modo ci aiuti a capire meglio qual è il padre che abbiamo accanto, che abbiamo avuto. Inizierei con il padre presente, Alberto. Ma il padre presente in realtà è un padre fondamentale per i propri figli, lo connoterei con tre aggettivi. È un padre certamente responsabile, e questa è l'esperienza della gran parte dei padri che abbiamo avuto, cioè sa prendersi cura concretamente dei bisogni primari dei propri figli, ma è anche un padre coinvolto e accessibile, il che significa che sa mettersi ad altezza di bambino e per esempio sa giocare sul tappeto quando un figlio è piccolo, oppure sa mettersi ad altezza di adolescente, guardare negli occhi il proprio figlio, e questo è il padre coinvolto. Accessibile è un padre che significa che tu puoi raggiungere in tutti i momenti in cui senti di averne bisogno, per cui non ti spaventa il dovergli parlare, il dovergli raccontare o chiedere aiuto. Dottoressa Morganti, e per contrario, il padre assente? Guardi, direi soprattutto rispetto alle figlie che hanno con il padre un rapporto particolare, poi non so se abbiamo modo di approfondirlo, la caratteristica dell'assenza è l'essere inaffidabile e anaffettivo. Questi sono i due grandi elementi di sofferenza, e è anche importante capire che il padre assente non è soltanto quello assente fisicamente, ad esempio i padri fragili, i padri con problematiche, padri che hanno problemi al lavoro, cosiddetti falliti socialmente, eccetera, sono non presenti per le figlie, come diceva appunto il collega, sono non accessibili, quindi è un'assenza anche emotiva, alcune volte fisica, ma alcune volte anche emotiva. Sono padri che lasciano alle madri la gestione totale del rapporto affettivo con la figlia. Ecco, la figura della madre la toccheremo, perché talvolta è, direi, aiuta la relazione tra la figlia, il figlio e il padre, talvolta invece la ostacola, anche inconsapevolmente. Andrei invece al padre autorevole e anche al padre autoritario. Sono sicuramente due profili differenti. Alberto, autorevole? Ma il padre autorevole è quello che sa segnare la strada, sa dare la norma, sa dare la regola, sa in qualche modo educare senza spaventarti. Lo fai quello che ti dice perché lo ami, non perché lo temi. Dottoressa Morganti, a lei toccano sempre i profili meno piacevoli, eh? È venuta così, non l'ho fatta apposta. Va bene, comunque tanto è quello che mi succede nel mio studio tutti i giorni, quindi. Ecco, autoritario. Allora, diciamo, il padre autoritario è per le figlie il padre che ti ama a condizione che tu ubbidisca, sostanzialmente. E questo chiaramente diventa un grande problema. Allora, alcune volte l'obbedienza può essere richiesta con un tono di voce un po' più duro, altre volte invece effettivamente anche con una violenza fisica, no? Quindi con interventi ancora più forti. Però il problema è che il danno che rimane poi alle donne è che imparano a mettersi in relazione con i loro uomini o anche al lavoro, come lei accennava prima, in una modalità di compiacenza, per cui non faccio quello che sento ma faccio quello che tu vuoi, perché ho imparato che questo è l'unico modo per essere amata. Quindi c'è assolutamente una differenza nel rapporto tra padre e figlia e padre e figlio. Allora io vi distribuisco i compiti. Alberto, con te esploreremo di più le dinamiche tra padre e figlio, mentre con la dottoressa Morganti con il padre e le figlie. E a proposito di figli e di padri, in linea con noi c'è una figlia di un grande, anzi grandissimo uomo. Per farvi capire di chi sto parlando, vi faccio sentire la sua voce inconfondibile. Scusi, lei è di qua? Dica. È di qua? Sì. Sono di qua perché? Ma c'ho papà per un tedesco. Ah, il tedesco? Te l'avevo detto che era tedesco. Ah, e allora come si fa? E ci parlo io. Perché tu parli? Ho avuto un amico prigioniero in Germania. Non mi interrompere, sennò perdo il filo. Dunque, scusami. C'è che? Bitte schön. Noio. C'è che? No. Ha capito? Capito. Dopo ti spiego. Noio vuole... Volevan savoir. Noi volevan savoir l'idris. Ja. Ja. Ma bisogna che parliate l'italiano, perché io non vi capisco. Parla italiano! Parla italiano! Complimenti! Complimenti! Parla italiano, bravo! Ma scusate. Dunque. Ma dove vi credevate di essere? Siamo a Milano, appunto, qua. Lo so. Dunque, noi vogliamo sapere per andare. Dove dobbiamo andare. Per dove dobbiamo andare? Sa, è una semplice informazione. Allora, saluto e do il benvenuto a Liliana De Curtis. Buongiorno. Buongiorno a lei, cara. Che ha appena pubblicato per Mondadori Ma la femmina, il romanzo dell'unico vero grande amore di Totò. Signora, il principe Antonio De Curtis ebbe una vita sentimentale tumultuosa, da autentico sciupa femmine, ma amò profondamente una sola donna, Diana, madre e sua madre. Ecco, lei proprio racconta da figlia la storia di amore di suo padre con sua madre, che è stata una storia piena di alti e bassi, contraddizioni, momenti meravigliosi. Sregolatezza soprattutto. Sregolatezza. Senta, ma che cosa ha significato per lei, figlia, riallacciare i nodi intrecciati di questa grande e travagliata storia d'amore? Guardi, devo dirle sinceramente, questo libro l'ha voluto molto mia figlia Diana, che si chiama come la mamma, come mamma, che sì. Papà ha voluto che si chiamasse così, perché era un omaggio a mamma in sostanza, perché mamma è sempre stata molto al di fuori di tutto, cioè appartata, tranquilla, non è che avesse diciamo la notorietà, niente proprio, lei era a casa, tranquilla, eccetera. E quindi diciamo che se lo meritava un libro scritto su di lei e su di lui, perché logicamente il loro amore è stato una cosa veramente meravigliosa. E questo è uscito proprio nei giorni dove si festeggia San Valentino, per far capire che in fondo l'amore esiste ancora, c'è. Non è vero che non c'è. Ma signora, lei da questa storia d'amore dei suoi genitori, che cosa ha imparato come figlia? Ho imparato tante cose, guardi, veramente tante cose. E soprattutto, ecco, l'amore in primis proprio è la cosa più importante. Senza amore non si fa niente. E quindi devo dire che loro sono stati eccezionali in questo, d'avermi portato anche nella sofferenza, cioè anche nel dolore, perché quando si sono separati mio padre e mia madre, diciamo, papà ha sofferto tantissimo, quindi l'abbiamo raccolto proprio con il cucchiaino, come si dice, e devo dire che poi questo amore non è mai finito, questa è la cosa più, meravigliosa, sì. Perché diciamo che lui si è sempre occupato di mamma, anche dopo la separazione, dopo che ha incontrato Franca e Franca Valdini, che si sono poi uniti e sono stati 17 anni insieme, quindi voglio dire, insomma, però mamma era un qualcosa che rimaneva lì, tanto vero che io ho, mamma purtroppo se n'è andata 3 anni fa, ma l'ho voluta mettere nella tomba, proprio dove sta lui. Signora Liliana, lei ha raccontato nel libro il Totò marito, compagno di vita, ma ripensando al Totò papà, come potrebbe raccontare un elemento che lo rendeva davvero unico, un papà speciale? E invece qual era il punto di debolezza del Totò papà? Allora, guardi, papà era una persona meravigliosa, nel senso che lui non mi ha mai toccato, cioè non mi ha mai dato uno schiaffo, cioè me ne ha dato uno solo quando venivo su da Marina Piccola a Capri, e il mio ragazzo, diciamo, di allora, che poi è diventato mio marito, mi diede un bacio. Allora su questo lui diventò pazzo, perché sua figlia era come Maria Goretti, no? Per lui intoccabile. E allora è arrivato e le ha dato uno schiaffo? Sì, mi diede questo schiaffo e rimase così con la mano aperta. E mi disse: guarda, sembravi Giovanna d'Arco, ti volevo dare un altro schiaffo e non te l'ho potuto dare perché mi avevi fatto talmente tenerezza. Chissà il fidanzato, voglio dire, chissà il suo fidanzatino. Ma quindi in questo momento, in quel momento, Totò non ci ha più visto e si è sentito in qualche modo messo da parte da questo suo... perché lui, adesso diciamo che lui era molto protettivo, lui conosceva il mondo molto bene e aveva paura che mi potesse succedere qualcosa di male, ecco, perché lui era non geloso, perché si parla sempre della gelosia, ma lui era protettivo, nel protettivo senso che quindi mi protegge ancora adesso, voglio dire, dopo 41 anni che è morto, 42 adesso. Senta, che cosa le ha insegnato adesso pensando a suo papà? Beh, guardi, mi ha insegnato prima di tutto a non dire bugie, a non mentire, il che è importantissimo. Secondo luogo, lui mi ha insegnato ad amare le persone, ad amare il genere umano, perché lui era molto attento a tutte queste cose e a quello che succedeva in giro, a quello che se qualcuno aveva bisogno lui era sempre pronto, con una grande generosità e soprattutto una generosità nascosta, non un'esibizione, cioè non fare diciamo occuparsi della gente facendolo sapere, no, lui infatti non si è mai saputo niente, solo dopo morto è uscito fuori che lui, il suo avvocato, mandava perché aveva era veramente un principe Totò. No, in questo lui aveva un animo e non ha mai dimenticato, perché lui ha vissuto la sua vita drammatica di miseria, di fame, di tutto quello che ci poteva essere. Essere nato da una mamma che aveva 16 anni allora, e quindi nel 1898 penso che doveva essere una donna con signora Liliana una grande forza, perché da sola. Sì. Ho fatto questo bambino figlio di NN fino all'età che... Quando quindi io penso che anche questo l'abbia sicuramente segnato. Ma signora Liliana, prima di salutarla, quanto l'ha condizionata? C'è una parte della sua vita che è stata condizionata in modo, mi lasci usare il termine, negativo dal rapporto che ha suo padre? Ci sono tante storie, ci sono tante situazioni in cui si dice ho fatto delle scelte sbagliate sul lavoro, o ho sbagliato gli uomini con cui mi sono accompagnata. Gli uomini sono sbagliati, ma questo non, papà non c'entra, perché anzi lui per me avrebbe voluto, che ne so, il re d'Inghilterra, sì, per esempio. Però io non ho fatto assolutamente niente di quello che lui ha voluto che io facessi. Quindi si è proprio sganciata, è andata in autonomia perché l'ha cresciuta libera. Mi ha cresciuto libera, ecco, perché questo... lui era un uomo libero, libero come idee, libero su tutto, e soprattutto lui odiava l'abuso di potere, questa era una cosa che gli dava un fastidio enorme. Signora Liliana, io la ringrazio, è stato un vero piacere averla qua con noi. Ricordo il titolo del suo libro, Ma la femmina, il romanzo dell'unico vero grande amore di Totò. Grazie signora De Curtis per essere stata con noi, buona giornata. Grazie a lei, ciao, arrivederci. Grazie. Dottoressa Morganti, un profilo di papà? Volevo riprendere alcune delle cose che sono state dette, che mi sembrano molto interessanti, nel senso che è importante capire che il padre che abbiamo ha a che fare anche con i valori che poi noi andiamo cavalcando nella vita. Quindi quando la signora parlava della sincerità, eccetera, è vero, cioè è il padre che ci insegna ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, che rapporto avere con il potere, che rapporto avere con il denaro. Mentre noi pensiamo al padre semplicemente in relazione ai fidanzati che avremo. Quindi questo mi sembra un tema non abbastanza indagato, su cui invece varrebbe la pena che le donne un po' si fermassero. L'altro aspetto che mi sembrava anche interessante era questo che diceva gli uomini che io ho scelto non erano in relazione al papà che ho avuto. In realtà non è, purtroppo non è così, nel senso che possiamo dire, un po' generalizzando, sì, che se abbiamo un padre ideale non troveremo mai un uomo che sia alla sua altezza, quindi in qualche modo boicotteremo gli uomini, certo, che abbiamo. Quindi in questo senso si dice poi una... Insomma, Alberto, è molto difficile essere padre. Io vorrei dare il benvenuto a Rosa, che ci chiama da Bologna all'824-0024. Rosa, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Che papà ha avuto, Rosa? Un brutto papà. Un brutto papà, perché? Un brutto papà perché, pur essendo una persona buona, come poi tutte le persone hanno sempre un lato buono, era una persona che... Molto gelosa della famiglia, delle donne, per cui era una tragedia sempre, sempre, qualunque festa, qualunque occasione che ci fosse qualcuno, qualunque situazione di lavoro, lui era geloso della mamma, di me, della sorella, in maniera che ci ha un po' così, poi condizionato, era molto, anche violento. Alzava anche le mani e niente, telefono perché io, come diceva la signora prima, la dottoressa, ho cercato un uomo invece che fosse mite, buono, tranquillo, che non alzasse la voce, proprio fosse per l'opposto di quello che ho avuto in famiglia da figlia. Ed è stata una buona scelta, Rosa? Prego? È stata una buona scelta? Non lo so. Nel senso che sfuggiamo da un ideale, sì, e poi... perché secondo me facendo così, proprio come diceva, ho fatto con la persona buona, la buona io, perché lui fosse buono, certo, anche. Ma questo è un'altra storia. Quello che mi dispiace invece è che io adesso ho 56 anni, ho cresciuto i miei figli, sì, credendo nella maniera più dolce che io sia stata capace, invece loro mi dicono sei come il nonno. Sei come il nonno. Dottoressa Morganti, grazie Rosa. La telefonata di Rosa ci dà tanti spunti. Rosa dice ho cercato un uomo completamente diverso da mio padre, ma... nello stesso tempo, a distanza di tempo, si ritrova, forse così le dicono i figli, a ricalcare un po' gli stessi errori del padre. Sì, direi, ci sono due elementi interessantissimi in questa telefonata. Uno è che il tipo di rapporto che abbiamo con nostro padre sviluppa dentro di noi un personaggio che si chiama il maschile interno, che è a sua misura, e quindi anche se poi noi pensiamo di essere diverse, dentro abbiamo questo modello. Quindi se abbiamo un modello di un padre iperprotettivo, autoritario, eccetera, noi faremo la stessa cosa con i nostri figli, anche se cercando di farlo in modo diverso, sì. Però è un imprinting molto potente, se una non si interroga ovviamente. L'altro aspetto che è connesso è che poi una in realtà non è libera di scegliere l'uomo che vuole, perché lo sceglie o identico al padre o in opposizione, ma essendo una scelta, come dire, non libera, si finisce col prendere un personaggio, non una persona, e quindi, come diceva la signora, poi non è l'unico elemento che dovrebbe guidarti, magari se c'è la persona sbagliata. Quindi è molto interessante questo, capire che non basta provare a fare delle scelte in opposizione, bisogna proprio cercare di riflettere su quali sono i valori che nostro padre ci ha trasmesso e quanta distanza riusciamo a prendere veramente dentro da questi valori. Proveremo a farlo nel corso della trasmissione, aiutati sicuramente dai vostri contributi. Faremo una sorta di corso pratico, Alberto. Possiamo farlo? Certo. Intanto vi leggo alcuni messaggi. Mio padre era il re della casa, amatissimo da mia madre, da mia nonna materna. Per me era un semidio, ma io ho dovuto faticare tanto per l'autostima. Perché, ci scrive Emma. E siamo tornati insieme, oggi parliamo della figura del padre, per cercare di capire che cosa ci ha insegnato e quanto ci ha condizionato. Arrivano numerosi messaggi molto profondi, belli, intensi. Voglio leggervi quello di Roberta di Palermo, che ci scrive: con mio padre mi mancava sempre la parola. Avrei voluto dirgli tutto, ma appena mi trovavo davanti a lui non ero capace di dirgli niente. Sento il rimpianto di non avere mai comunicato davvero con lui. Alberto, ce ne sono altri, ne vuoi leggere uno tu? Sì, Paolo da Torino. Mio padre è stato il mio eroe personale e sono cresciuto con un unico desiderio: diventare come lui. E quando mi sono laureato, i suoi occhi pieni di orgoglio mi hanno fatto sentire l'uomo più felice della terra. Voglio leggervi un messaggio di Stefania, ci scrive da Varese: mio padre era sempre altrove, mai vicino a me, e in me è stata una voglia di padre che non si è mai placata. Sarà per questo che mi trovo sposata con un uomo di 20 anni più vecchio di me. Continueremo a parlarne naturalmente nel corso della nostra trasmissione insieme alla dottoressa Monica Morganti. Adesso andiamo a sentire i risultati di alcune ricerche interessanti. GR Salute. Si chiama Gala Trial, è un progetto scientifico che ha messo a confronto l'anestesia locale e quella generale per gli interventi alla carotide. Ora i risultati, frutto di 10 anni di ricerca su più di 3.000 pazienti selezionati in 24 paesi del mondo, sono pubblicati su Lancet, una prestigiosa rivista scientifica britannica. Professor Francesco Alessandrini, direttore del Dipartimento di Malattie Cardiovascolari alla sede di Campobasso dell'Università Cattolica Sacro Cuore. Noi abbiamo contribuito da questa sede con 32 pazienti altamente selezionati, perché il Gala Trial si è caratterizzato dal coinvolgimento di molti paesi e di molti centri, proprio perché è difficile trovare il paziente ideale per fare questo tipo di studio. Comunque alla fine lo studio ha dimostrato che non vi sono differenze significative nella riuscita di un intervento dovute al tipo di anestesia. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in pratica si può effettuare l'anestesia generale così come si può effettuare l'anestesia locale, e tenendo in considerazione prevalentemente le condizioni del paziente, più che avere dei timori o delle precauzioni riguardo l'anestesia. Gli alimenti ricchi di antiossidanti sono meno efficaci se assunti con il latte. È quanto emerge da uno studio dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione. Professor Mauro Serafini, del Laboratorio di Ricerca sugli Antiossidanti dell'INRAN, coordinatore dello studio. Abbiamo investigato l'effetto antiossidante esercitato dal mirtillo, dall'ingestione di mirtillo in soggetti sani, in presenza e in assenza di latte. Quello che abbiamo evidenziato in maniera molto molto chiara è che in conseguenza dell'associazione del mirtillo con il latte noi abbiamo una scomparsa proprio dell'effetto antiossidante in vivo e una riduzione dell'assorbimento dei composti bioattivi. Tutto questo porta ad una riduzione in qualche modo del potenziale effetto protettivo del mirtillo quando viene associato con il latte. Questo studio fa il paio con altre ricerche del nostro laboratorio, dove abbiamo mostrato proprio come l'associazione del latte con cioccolato e tè verde e tè nero causa lo stesso effetto. L'aspetto importante di questo studio è legato proprio all'ottimizzazione, ai consigli che dobbiamo dare ai consumatori per poter ottimizzare l'apporto di antiossidanti, cioè molecole che sono funzionali per la nostra salute. È evidente che noi gli antiossidanti li mangiamo in un pasto, quindi dobbiamo stare molto attenti alle associazioni. Per il momento, fin tanto che non continueremo altri studi, è preferibile consumare sia il cioccolato che il tè verde che il tè nero e anche il mirtillo da soli e non in associazione con latte e le sue proteine. Giuseppe ci chiama dalla provincia di Latina. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Soltanto un complimento. Siete sempre interessanti, sempre, qualsiasi cosa dite per quanto riguarda la medicina o le cose, quel tipo, o anche questi argomenti come quello di oggi, siete sempre interessanti, soltanto quello. Grazie Giuseppe. Qua. Senta, e lei che papà ha avuto? Okay. Io ho avuto un papà figlio della guerra, mio padre è stato in guerra, ha fatto 7 anni di prigionia in Inghilterra, e cioè fra l'Africa e l'Inghilterra. E figlio del popolo napoletano, di quelli veraci, diciamo. E niente, mi ha insegnato principalmente la libertà e le regole, quello che io ho insegnato ai miei figli, soltanto questo, la libertà individuale, perché la libertà fosse il bene più importante, e basta. Giuseppe, c'è un picco, non per trovare sempre dei nei papà, per carità, ma l'ha condizionata in qualche modo, in modo negativo? Lei ha fatto delle scelte di cui magari si è pentito, per assecondare suo papà, per seguire il suo esempio? No, forse un'unica cosa, però è legata pure alla mamma, la responsabilità della famiglia, perché sono il primo di 6 figli. Maschio, primo maschio, dopo 4 femmine e dopo un altro maschio, sì. Con la differenza di età fra il primo e l'ultimo, cioè fra me e mio fratello, di circa 13 anni. Quindi il papà è morto che mio fratello aveva 10 anni e io ne avevo 23. E quindi ha dovuto fare grossa. Un po' il padre. Giuseppe, grazie per averci raccontato la sua storia. Dottoressa Morganti, mi scusi, ma spesso quando qualcosa non va, uno riscava un po', non è troppo facile dare la colpa al padre di insoddisfazioni nel lavoro, delle scelte magari dell'uomo sbagliato? Non è un po' un alibi? Potrebbe esserlo? Facciamo a capire se è colpa del nostro papà o in effetti siamo noi che, indipendentemente da nostro padre, avremmo fatto quelle scelte che poi sono risultate non opportune per la nostra vita? Allora, diciamo, io non userei tanto la parola colpa, nel senso che non credo che i padri abbiano delle colpe, hanno delle responsabilità, così come noi abbiamo responsabilità rispetto ai nostri figli. Però le responsabilità ci sono, nel senso che a seconda dello stile educativo che ci vede coinvolti sia come figlie che poi come genitore, è chiaro che accadono delle cose nell'altro. Io l'impressione che ho, se devo dire dal mio punto di vista di clinica, no? Quindi di una persona che lavora con le donne che soffrono, quello che mi ha colpito, che poi mi ha spinto a scrivere questo libro, è che in realtà le donne, se danno tra virgolette una colpa a qualcuno, la danno alla madre. Cioè, sì. Il padre veramente è un grande assente, oggi perché ne stiamo parlando, ma ci sono pochissimi libri ad esempio sul rapporto padre-figlia e anche pochissime indagini psicologiche, se non queste un po' più superficiali, sulla scelta del partner, no? Sì. Però ad esempio sul legame che c'è tra come noi gestiamo il denaro e i valori sul denaro trasmessi al padre non c'è molto, e invece è una cosa che adesso conta, perché adesso le donne da moltissimo tempo lavorano, no? Sono nel mondo reale, quindi in questo senso io non mi sento di poter dire che non c'è un legame tra come noi gestiamo ad esempio il denaro, il potere e il tipo di relazione paterna che abbiamo avuto, perché la mia esperienza è esattamente il contrario. Poi non è detto che sia esattamente in linea diretta, cioè non è detto che un padre che non gestiva bene il denaro fa una figlia che non gestisce bene il denaro, ad esempio può fare al contrario una figlia nevrotica che è attaccata al denaro perché vive l'ansia continua di perderlo, quindi è più complesso, ecco, non è un rapporto proprio così causa-effetto, però il legame col padre c'entra moltissimo. Alberto. Ma riprendevo il racconto di Giuseppe perché in realtà ci ha raccontato un po' anche un papà da manuale, quando ha detto: il mio papà mi ha lasciato 2 valori, libertà e regole. Se ci pensi, è proprio a questo che dovrebbero servire i papà: da una parte presidiare proprio il campo della norma, delle regole, indicarti il percorso, farti vedere i paletti, mentre la mamma è molto impegnata a darti tutto l'affetto, lui ti dà le regole. Il secondo aspetto è la libertà, cioè un papà è proprio quello che ti riesce però a togliere da quell'affetto un po' invischiante della mamma, ti spinge dentro il mondo, in qualche modo ti fa diventare un esploratore della vita e ti dà il significato che può avere per te il sentirti un cittadino della vita che può gestire un buon livello di libertà. Andiamo a Roma, 824 0024, c'è Francesca che ci aspetta. Francesca, buongiorno. Sì. E benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, io esordisco dicendo subito che ho un padre pessimo, stato presente fino a che ho avuto 14 anni, dopodiché c'è stata la separazione, vabbè, ma lui è completamente sparito fisicamente ed affettivamente. E ho avuto problemi, disturbi alimentari, ho avuto problemi di depressione, non si è accorto mai di niente, mi sono laureata, non è venuta la laurea, e ho avuto un figlio, non si è presentato, insomma, assente, ma nella facciata lui si è sempre dimostrato invece presente con delle telefonate, con comunque anche parole affettuose che a me sono sempre risultate di facciata. E tutt'oggi io, diciamo che ho preso la decisione di allontanarlo anche con queste telefonate di facciata, però non ce la faccio. Perché immagino, Francesca, deve essere durissima. Sì, è una brutta situazione, però la vivo in maniera serena, nel senso che comunque ho razionalizzato il tutto, ormai. Sì, con fatica immagino, con grande fatica. E poi non si sa mai, no, se stiamo procedendo, stiamo tornando indietro, vero? Esatto. Ci si rimane sempre un po' imbiscati. Dottoressa Morganti, la telefonata di Francesca aprirebbe una puntata. Io vorrei che lei però rapidamente una pillola, un consiglio per tutte le donne che stanno facendo fatica a rielaborare un po' l'immagine del loro padre, ne stanno prendendo le distanze ma in qualche modo si sentono invischiate. È una strada giusta? C'è una strada migliore delle altre? Beh, è un elemento importante che lei accennava prima e non abbiamo approfondito, invece lo diceva Francesca, porta a galla, è poi il triangolo madre, padre e figlio, qui penso rispetto alla separazione. Nel senso, io se dovessi dare un consiglio alle figlie, appunto per l'esperienza che io ho anche nei laboratori che faccio con le figlie, è di guardare il padre in un rapporto diretto padre figlio e non triangolato dall'immagine materna, perché il punto è che nella stragrande maggioranza dei casi le figlie vedono il padre che la madre vogliono che lei veda. Quanto è vero quello che dice. E questo, guardi, le dico nella mia esperienza, quando ho scritto questo libro non pensavo di farlo, ma alla fine ho aggiunto un capitolo proprio su questo, madre, padre e figlia, perché ho capito che se questa cosa non l'andavo a dire, in realtà saltava un passaggio importante. Un passaggio importante che credo serva anche a noi mamme, no? Che adesso viviamo in famiglia e quindi tante volte ci siamo intermediari della relazione tra il nostro compagno, il nostro marito e i nostri figli. È una posizione estremamente delicata. Eccoci, abbiamo Silvia che ci chiama dalla provincia di Modena. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Sì, volevo dire anch'io questa cosa del padre. Io ho avuto un padre molto, come devo dire, egocentrico, no? Sì. Un artista, veramente. Genio e follia, proprio, si può proprio dire così. Lui non andava d'accordo con mia madre, hanno passato una vita di litigi fino a che poi si sono divisi. E non era capace di insegnare, non era capace neanche di essere affettuoso. Lui viveva in sé, viveva nella sua arte, nelle sue cose che gli interessavano, era sempre via, faceva una vita deregolata, una vita... io è una persona che comunque si è fatta molto odiare, no? Sia dalla moglie che dai figli. Sì. E io ci ho messo molto tempo, io penso di averlo perdonato tutti e due, no? Come devo dire, sicuramente ho preso delle cose vedendolo da lontano, no? Andando nelle stanze che lui adibiva al laboratorio quando lui non c'era, sì. Di nascosto, e così ho preso ad esempio la passione per il disegno, per l'arte, e sono riuscita a prendere la curiosità intellettuale per tutte le cose, nonostante che lui, cioè, non abbia di fatto insegnato, non sia stato mai vicino. E ho tentato moltissime volte, no, di mettermi un uomo vicino, di avere una relazione. Sì. Purtroppo ho sempre scelto uomini con moltissimi problemi, per cui alla fine dovevo lasciarli andare perché mi ritrovavo che non si poteva andare avanti. Adesso sono da sola, sto benissimo, cioè mi sento... Silvia, lei ha fatto un bel percorso, perché Alberto, Silvia ha raccontato, andavo nelle sue stanze, ha preso qualche cosa. Io lo trovo veramente questa immagine toccante, di Silvia, no? Che si muove tra le stanze di casa a guardare, non vista, le opere del suo papà, è un po' un'immagine che mi sembra ritorni anche nella Silvia che sta alla ricerca di uomini con cui prova a vedere se si può costruire una storia e dopo un po' che li osserva li deve lasciare andare perché non sono gli uomini giusti. C'è probabilmente dentro a questa vicenda un'infinita grande mai spenta voglia di papà. Franco ci chiama da Imperia, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a voi tutti. Intanto che bello essere in comunicazione con voi. Ma anche da parte nostra, Franco, ci sentiamo tutti vicini vicini. Ci racconti? Beh, io sono cresciuto in una famiglia dove appunto mio padre era un militare, tra l'altro anche lui è stato prigioniero in Germania, quindi ha ricevuto a sua volta una certa educazione, un certo tipo di educazione piuttosto rigida. Poi il fatto stesso che fosse stato appunto un militare, noi, io e mia sorella siamo cresciuti in caserma, quindi dentro e fuori da una caserma dove c'erano ovviamente gli alloggi di servizio. Mio padre mi ha messo molti paletti, tanti no, tanti no, e io con questi no sono diventato un po' una sorta di ribelle, perché poi andavo a fare esattamente tutto il contrario di quello che lui andava, cercava di insegnarmi. Ora, ho 45 anni, sono papà di un bimbo di 4, però mi sono accorto nel tempo, maturando ovviamente, che questi no sono stati davvero provvidenziali nel mio processo evolutivo di crescita. Quindi oggi come oggi mi rendo conto che sono stati veramente importanti, perché mi hanno dato degli insegnamenti davvero fondamentali. E sto cercando di fare lo stesso con mio figlio. Cioè, però allo stesso tempo mi trovo un po' combattuto dal fatto di dover dare dei no, dover dire dei no, dover mettere dei paletti. Però mi rendo conto che sono necessari. E a volte vado un po' in conflitto con me stesso. Una però delle cose più belle che mio padre mi ha insegnato è: un uomo vale quanto vale la sua parola, ed è una cosa profonda che io mi porto dietro e stretta nel cuore. Cerco di comunicare anche mio figlio. Secondo me Franco ce la farà. Alberto? Sì, sì, promette bene. E in linea con noi abbiamo una amica. Io mi allargo un po' di essere benessere, è già venuta a trovarci, l'amate sicuramente anche voi. In linea con noi abbiamo Alexia. Ciao! Ciao, buongiorno. Senti, ero interessantissima da quello Alexia, che stavi dicendo. Perché oggi tu qui con noi? Perché proprio al tuo papà hai dedicato una dolcissima e struggente canzone che compare proprio nel tuo ultimo CD, Ale. Sì, esatto, e che in occasione di Sanremo ho rivisitato in compagnia di mia sorella, che penso fosse la duettante eccellente per poter condividere con me questo brano. Senti, qual è l'aspetto della tua vita che è stato maggiormente toccato dal rapporto con tuo padre? La dottoressa Morganti è in linea con noi e quindi poi da questa magari, dalla tua risposta, può darci un profilo, un'indicazione anche per le nostre ascoltatrici. Alexia. Ma guarda, mio padre era un punto di riferimento strepitoso per quanto mi riguarda, e l'ho vissuta questa certezza nel momento stesso in cui l'ho perso. Sapevo che avevo un sacco di cose ancora da domandargli e improvvisamente mi sono resa conto che mi è mancato questo punto di riferimento straordinario, e ho sentito un vuoto pazzesco. Quindi la dimostrazione è che comunque per me lui rappresentava la guida, rappresentava il sole, rappresentava la luce, rappresentava la fiducia, rappresentava anche i no, i punti fermi che mi hanno aiutato sicuramente a diventare forte, a diventare determinata e sicura di me. E si scoprono tante volte tutte queste cose quando ci si sente con le spalle scoperte. Dottoressa Morganti, siamo praticamente in chiusura di trasmissione. Alexia le lancia una palla. Sì, io la raccoglierei perché una delle cose che cerco anche di dire in studio alle mie pazienti è: i papà poi vanno via, no? Cioè sia i papà buoni che i papà cattivi muoiono, e quindi questo credo che sia una cosa che vale la pena tenere presente. E il suggerimento è: proviamo a scrivere una lettera a nostro padre, che non spediremo mai, ma che ci aiuta a capire che padre abbiamo e ci dà dei margini di recupero per un rapporto che spesse volte finisce troppo presto, lasciando un grande rimpianto e una grande amarezza. E questo devo dire è l'esperienza che più dolorosa che io ho come terapeuta, nel senso vedere poi queste mie pazienti che troppo tardi si accorgono di tutte le cose che hanno in sospeso col padre e non possono chiarirle nel bene e nel male, perché c'è sempre uno spazio di chiarimento e di recupero possibile. Alberto. Sì, direi che effettivamente la canzone che Alexia ha dedicato a suo padre è proprio questa lettera. Gli parla come se ce l'avesse lì davanti e lì presente. Ma una curiosità, proprio un po' per alleggerire il tono, tu la prossima settimana sei sul palco di Sanremo con Mario Lavezzi, che effettivamente ha un'età che da potrebbe papà. Essere che quasi potrebbe da essere mio papà. Però è la prima volta che va a Sanremo, quindi insomma è un... Lì inverti, mentre tu hai grande esperienza del festival, chi sarà il vero genitore su quel palco? Tu o Mario? Ma guarda, io credo che abbiamo un 50 e 50, nel senso che comunque io sono la quarta volta che mi esibisco, lui la prima volta, però la sua esperienza è talmente vasta che io mi ritengo assolutamente di dargli un buon 50%. 50 e 50. Grazie Alexia per essere stata con noi, in bocca al lupo. Grazie Crepi, un abbraccio. Dottoressa Morganti, è stato molto piacevole stare in linea con lei. Mi piace questo suggerimento della lettera da scrivere, da non consegnare, da tenere nel cassetto. Ne farò tesoro anch'io. Se volete possiamo poi condividerci, scambiarci queste idee sulla figura del nostro papà, di quello che è stato, di quello che ci ha dato, di quanto siamo riusciti proprio ad accettandone i limiti a diventare delle persone nuove. Dottoressa Morganti, grazie ancora e ci sentiamo presto. Alberto, noi ci sentiamo sabato. Dove parleremo con mamma e papà. Prima di salutarvi, scusate, molti ascoltatori mi stanno chiedendo il titolo del libro della dottoressa Morganti, lo ripeto, Figlie di padri scomodi, Franco Angeli editore. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, sempre dopo il GR delle 11. Buona giornata.